Bufala in tavola di Nicoletta Carbone. Sono pronta, e voi? Allora sedetevi, perché oggi pranziamo col dottor Stefano Erzegovesi. Ce l'ho qui accanto a me, direttore del Centro Disturbi Alimentari dell'Ospedale San Raffaele di Milano, che da noi è il nostro medicuoco quasi cuoco. Dottor Ormai Erzegovesi, sì. Ormai buongiorno. Siamo qui per questo. Buongiorno, Nicoletta. Allora, prendiamo i nostri amici per la gola e, dottor Erzegovesi, svegliamo il menù che lei ha preparato proprio per noi, un menù speciale per fare festa, perché la domenica si fa festa, ma anche per darci la carica, il che non guasta. Però poi mi smonta tutte le mie ricette, dice sono troppo povere, che lei le vuole più condite, insomma. Ma adesso quando mai? Non so se sbilanciarmi. Ma quando mai? No, dice, ma poi è troppo poco quello che mi hai detto, dai, oggi proviamo. Che carino. Intanto posso dire che le ricette, che sono molto buone, sono sempre perfette le ricette del nostro medicuoco quasi qua, che è un attimo che mi diventa permaloso, sono sulla pagina di Obiettivo Salute, solo lì le mettiamo. Sì, dedicate a Obiettivo Salute. Wow. Alla Nico, anche se vuole dedicate alla Nico, ecco, che le sa tutte, ricordate. Non è vero. Allora, intanto, un menù, lei da che cosa si è lasciata ispirare? Beh, questo momento si parla tanto di infezioni, sistema immunitario, ci sono i virus, verissimo, la banalissima influenza, ma comunque pericolosa nel nostro piccolo, alziamo le difese immunitarie, quindi crucifere, quindi famiglia del cavolo, quindi foglie verdi e quindi spezie ed erbe a dare una bella botta di forza al sistema immunitario. Vuole svelarci il menù che ha preparato o li lasciamo lì che pensano con l'acquolina in bocca? Chissà per se viene più appetito a pensare o a vedere. Questa è una bella domanda. La fase cefalica, che quando uno immagina che comincia a salivare, dai, diamogli qualche stimolo alla fase salivate, cefalica. Salivate. Facciamo un'orecchietta con una cima di rapa appena scottata, delle briciole di pane croccante, un po' di capperi, quindi un po' di profumi mediterranei e magari un po' di arborinato nel pane croccante, che potenzia l'effetto antinfiammatorio e è molto più profumato e gustoso. Devo dire che la descrizione è veramente di un cuoco, altro che quasi cuoco. Quasi, sempre quasi, medico invece, tutto medico intero. No, medico sì. Medico... Mi è piaciuto quelle briciole croccanti di pane arborinato. Nella sua semplicità, vi assicuro, abituatevi a farle, perché anche su una banalissima pasta in bianco che fate in 3 minuti vi cambia il gusto di quello che mangiate e poi è sempre un veicolo. Ricordiamoci che le erbe secche e le spezie sono potentissimi antiossidanti, è un modo gustoso ma anche poi salutare per poterle aggiungere al nostro piatto. Di secondo ci propone... Ecco, di secondo andiamo sul profumatissimo orientale, qui si può spaziare anche sul piccante, ricordiamoci che il piccante stimola... Si avvicina a San Valentino, no? Il piccante, esatto. L'ha fatto per quello? Il piccante può così risvegliare le energie, ma il piccante ricordiamoci che ha tutti gli effetti un attivatore ugualmente di quelle che sono le nostre i nostri meccanismi cellulari che hanno a che fare con il metabolismo e quindi non adesso pensate che col peperoncino bruciate i grassi, però sicuramente il metabolismo si giova di un apporto di spezie piccanti e poi aumenta la secrezione gastrica e quindi in qualche modo migliora la digestione. Rispettate sempre il vostro palato con il piccante. Mi raccomando, mangiare un piccante che sentite come una violenza per il vostro palato non va mai bene. Iniziate... Noi siamo gentili. Gentili. Noi pratichiamo la gentilezza anche in cucina, gentilezza. Soprattutto. Per il cervello e per il corpo fa bene a noi e fa bene verso chi la dirigiamo, la nostra gentilezza. Palato appena appena una puntina di piccante in questi ceci speziati all'indiana, che sono fondamentalmente un letto di soffritto con la cipolla, lo scalogno, con qualsiasi verdura ci piaccia. Mettiamo dei ceci precedentemente cotti in pentola a pressione, così salviamo i loro poteri validi. E se uso quelli in scatola? In scatola si può fare assolutamente. Tra le cose in scatola, sicuramente i legumi in scatola, così come i piselli surgelati, sono tra le cose migliori, nel senso di mancanza di scorie, di residui, di altro. Quindi anche se siamo di fretta, sciacquiamo bene i ceci, li mettiamo in una padella con il nostro soffritto. Mi raccomando, le spezie. Le spezie sono timide. Non mi cadete sulla spezia. La spezia è timida, abbiate rispetto per la spezia. Ma bella, e la spezia è timida. Va scaldata lentamente, quindi non mettiamole mai alla fine del piatto, anche perché in termini gustativi resta separato come sapore, resta un po' più terroso da un punto di vista sensoriale. Mettiamola all'inizio della cottura. Normalmente, come fanno in India da millenni, nel soffritto iniziale mettiamo le nostre polveri, le facciamo lentamente scaldare e poi le facciamo andare per tutto il tempo della cottura del nostro piatto. Vi assicuro che il profumo sarà forte, ma ci sarà molta più dolcezza, perché la persona timida, quando si affeziona, diventa dolcissima, vero, e anche molto legata a noi. Timida come una spezia. Esatto, questo bello potrebbe essere. Allora, intanto che è pronto, inganniamo un po' l'attesa, dottor Arzegovesi, con una specie di gioco test. Dai, che si mangia, si gioca, si chiacchiera, è bello. Un gioco che funziona un po' come dimmi come mangi e ti dirò chi sei. Perché, dottor Arzegovesi, al di là della battuta, la relazione che abbiamo con il cibo è squisitamente personale, unica, e spesso racconta di noi più di tante parole. Forse racconta noi anche parti di noi che non conosciamo. Sì, assolutamente. Noi ricordiamoci che abbiamo un imprinting rispetto a quello che vuol dire relazionarci col mondo da neonati attraverso un atto alimentare, per cui tutta l'esperienza di contatto, di vicinanza, ma anche di comunicazione con l'altro, noi ci accorgiamo di essere diversi dagli altri, quindi di essere un'entità separata dal mondo nel momento in cui cominciamo a prendere il latte dalla mamma. Biberon o seno che sia, comunque è un'esperienza che ha a tutti gli effetti un valore, un fortissimo valore relazionale. Tutto quello che ruota intorno al cibo per tutta la nostra vita ruota intorno a dei significati che hanno sempre a che fare con la relazione, ma soprattutto che hanno a che fare con la regolazione delle emozioni. Quindi da come mangiamo noi riusciamo a capire quanto effettivamente le nostre emozioni stiano funzionando bene o quanto stiano funzionando invece in maniera magari un pochino più fragile o un pochino più stressata, traumatizzata o altre cose. Intanto, se voi volete raccontare la relazione che vi lega al cibo, il vostro rapporto con il cibo, tra poco delineeremo dei profili. I nostri social sono sempre a disposizione, lo sapete, quindi scriveteci, postateci, rimanete in contatto con noi, perché il dottor Arzegovesi ci aiuterà proprio con degli esempi molto semplici a capire che cosa ci dice la modalità con cui assumiamo il cibo, che cosa racconta di noi, e naturalmente chiederemo al dottor Arzegovesi di fornirci delle indicazioni per un equilibrio gentile, un'armonia che non può che giovare al nostro benessere. Ci fermiamo, ma voi restate, il dottor Arzegovesi, il nostro medicuoco, quasi cuoco, è qui, chiuso in studio con me. Siamo qui. La bufala in tavola. Quelli che vanno dal medico, oh yeah. Quelli che vanno solo dal farmacista, oh yeah. Eccoci tornati insieme oggi, sottotitolo della puntata, dimmi come mangi e ti dirò chi sei. Fatecelo sapere anche voi sui nostri social, Facebook, Twitter e Instagram. Qui in studio con me il dottor Stefano Arzegovesi. Dottore, facciamo un po' di profili in modo che le amiche e gli amici da casa possano riconoscersi e trarre delle indicazioni. Ad esempio, ci sono quelli che non mangiano, spiluccano un pezzetto di questo, un assaggino dell'altro, poco poco dell'altro, ancora saltellano di qua e di là. Lo spiluccatore normalmente è una persona che si sente a dieta o vorrebbe sentirsi a dieta, e quindi in qualche modo si ritrova nella condizione di dover stare sempre molto attento, è come se fosse una persona molto in allerta. Pensiamo a quello che potrebbe essere il fumatore che vuole smettere di fumare, che fa due tiri e spegne la sigaretta. Sì, quindi ecco, è qualcosa che dà l'idea di una persona che sta cercando di controllarsi, però ricordiamoci, importantissimo, il concetto di controllo per l'alimentazione è un concetto che non dobbiamo mai sopravvalutare, perché molto spesso, purtroppo anche i medici, devo dire, noi siamo sovrappeso, andiamo da un medico che ci dice vabbè, si controlli, se mangia troppo si controlli e mangi di meno. In realtà la funzione del controllo alimentare non è così semplicemente una funzione volontaria come muovere un braccio piuttosto che un altro gesto di muscolo scheletrico. La funzione alimentare, essendo così strettamente collegata alla sopravvivenza, in realtà è una funzione che muove moltissimo tutta una serie di energie che hanno a che fare con le emozioni, ma anche con le emozioni profonde. In ognuno di noi c'è un'emozione che ci dice: se non mangi abbastanza muori. E questa cosa, comunque, il pensare di dire decido di non mangiare, non mangio, non è così facile. Lo spiluccatore cosa fa? Proprio perché teme che sia troppo tutto quello che mangia, da un lato cerca di mangiare piccolissime porzioni, quindi piccolissimi assaggi, ma contemporaneamente sente una spinta interna al nutrimento, che è una spinta che, non essendo in grado di controllare, lo porta ad avere questo atteggiamento un po' di spiluccare. Attenzione a spiluccare, perché questo vuol dire non mettere mai a riposo il nostro sistema digerente. Ricordiamoci che ogni cellula del nostro corpo ha degli orologi biologici. Il nostro sistema digerente ha un orologio biologico per cui è felicissimo se noi diamo una pausa di diverse ore tra un pasto e l'altro, perché in questa pausa ricostituisce gli enzimi, ricostituisce le membrane digestive e quindi ha a tutti gli effetti un rinnovamento cellulare per il benessere. Se noi smangiucchiamo sempre, questa pausa non c'è mai, e questo sicuramente non ci fa bene alla digestione, ma pensiamo ai mille problemi che possono affliggere l'epoca occidentale attuale, quindi la stitichezza piuttosto che il reflusso gastroesofageo, la gastrite, eccetera, facilmente, non solo, ma facilmente possono essere legati a un sistema digerente che non è mai a riposo. E quindi consigli così per il nostro amico spiluccatore all'ascolto. L'amico spiluccatore, che gli deve diciamo fare? Prendi un piatto, anche piccolo, un piatto da frutta, e fatti la porzione prima, quindi entrare in un'ottica di cercare di darsi un limite che sia un limite che i suoi occhi possano vedere. Il limite visivo, e quindi un limite che è in qualche modo spaziale davanti, consente di avere una quantità che alla fine sarà molto più soddisfacente, perché una sazietà concentrata in un piatto unico è una sazietà più soddisfacente, e contemporaneamente lo aiuterà sicuramente a combattere meglio con il suo sovrappeso, con la sua dieta. Poi ci sono quelli che più che mangiare divorano, quelli che appena hai detto buon appetito, che si dice che non si debba dire. Questa è una lei cosa, lo sapeva? Sì, buon sì, appetito, per non sta bene. Le persone che il galateo lo conoscono dicono non bisogna dire buon appetito, noi lo diciamo tra parentesi, ma bello, appena dicono appetito, dai buon appetito, hanno già divorato, svuotato il piatto. Sì, chi sulla O di buon appetito ha svuotato il piatto, la voracità, ricordiamoci che può essere, se è una voracità importante, anche un problema clinico, perché a quel punto non è più mangiare ma diventa abbuffarsi. La voracità normalmente è legata a persone che, da un punto di vista emotivo, sono persone che hanno attivato all'estremo il meccanismo dell'animale predatore. Se ci pensiamo, l'animale predatore è estremamente vorace perché sa che mentre lui sta mangiando potrebbe essere attaccato da un altro, che da un concorrente predatore, certo, più grosso è di un lui. Attimo, e quindi, come dire, il leone che mangia, se ci fate caso, di solito i predatori, e soprattutto i predatori carnivori, spazzolano, mangiano veloce, buttano giù, ma non, il concetto zen, mastichiamo tanto, ma proprio no, niente, buttano ma no, giù, mangiano interi anche pezzi di gazzella, l'omino zen e via. E quindi su questo attenzione, facciamoci un pensiero: se siamo così voraci, evidentemente può essere un periodo della nostra vita in cui ci sentiamo particolarmente in allerta, ci sentiamo particolarmente sotto attacco. Noi non abbiamo e non siamo predatori, ma abbiamo mille stimoli nella quotidianità che possono essere percepiti come stimoli di allerta importante: una preoccupazione per il futuro, un evento familiare o lavorativo, una malattia nostra o di una persona cara. In quei casi è fondamentale tornare all'inizio, non per tutti i bocconi, perché diventa una proposta impossibile, ma anche solo per un boccone ogni tanto, facciamoci caso e proviamo, non diamoci, perché il metodo coercitivo non funziona più di tanto il dire devo cercare di mangiare lento, esattamente come ti dire ti fa venire il nervoso, si, poi si innervosisce, ecco. E magari diventiamo, e poi si mangia di più, si mangia ancora, si addenta più veloce anche la coscia del vicino o il ditino di chi fa così, ecco. Dicendo fai piano, diamoci invece un obiettivo che tiene alla larga il giudizio, per cui devo fare questo, faccio giusto, faccio sbagliato, e facciamo semplicemente un discorso di esperienza, cioè voglio sentire per un boccone ogni tanto del mio pasto di che cosa sa quello che sto mangiando, e se io voglio sentire di che cosa sa quello che sto mangiando devo tenerlo a contatto con il mio sistema sensoriale, che ricordiamocelo è meravigliosamente complesso. Noi abbiamo recettori gustativi, olfattivi in una superficie bocca, lingua, palato, retroolfatto, che è questa parte che per cui i vapori di quello che mangiamo risalgono verso il naso e ci danno una serie di sensazioni che sono gusto olfattive, quindi ancora quindi più complesse. Ci perdiamo un mondo di sensazioni buttando giù enorme. Il boccone alla veloce? Enorme, soprattutto se noi siamo così voraci, ci perdiamo un'occasione preziosissima, che è quello di distinguere molto, in maniera molto più consapevole, il cibo che ci fa bene dal cibo che ci fa male. Pensiamo a un cibo tipicamente ultraprocessato, industriale, estremamente carico di prodotti raffinati. In quel caso noi sentiamo il salato, lo zuccherino e il grasso, che vuol dire che se anche appena lo mettiamo in bocca, ma neanche gli diamo mezzo boccone, buttiamo giù, già l'abbiamo sentito. Se quello stesso boccone noi invece ci mettessimo a mangiarlo con grande lentezza, cominceremo a sentire che in realtà non è così tutto luccicante questo piatto, cominciamo a sentire dei retrogusti che magari ci fanno dire beh, magari mi fermo prima. Come a dire, non bisogna fermarsi all'apparenza, neanche quando mastichiamo. Dottor Arzegovesi, ci sono invece quelli che mangiano lentissimi, non finiscono mai. Ecco, la lentezza, se è una lentezza dove io consapevolmente gusto quello che mangio, va benissimo. Noi diamo dei tempi che sembrano essere quasi assurdi nell'epoca nostra dove siamo di corsa, che sono 30 minuti per i piccoli pasti, quindi colazione, spuntini, e 60 minuti, cioè un'ora, per i pasti principali. No, dottor Arzegovesi, un'ora a tavola. Questo con... se vogliamo mangiare, essere magri, se mangiamo piano sicuramente. Veramente, chi va piano va magro e lontano, sano e lontano. Però lei sta a tavola un'ora quando mangia la sera. No, in questo senso, ma io sono il primo, ma lo racconto anche quando faccio i gruppi con i miei pazienti, io sono il primo a dire siamo flessibili, se io però devo lavorare e quindi devo essere di fretta, cerco di mangiare più in fretta, però piuttosto mangiamo meno ma mangiamo più lenti. Ecco, questa è una bella indicazione, meno e più lenti. Piuttosto che imbuffarsi di due piatti, sì, scegliamo uno e lo mastico bene. Masticandolo lentamente. Senta, così ma sentendo se i bambini, il sapore. I bambini spesso... Non so se anche lei ha avuto la sensazione, a me è capitato con le mie bambine quando erano piccole di vedere, non so, quando uno dice, sai, gli cresce la cosa in bocca, no? Perché masticano e sembra che non mandino mai giù. Che cosa significa questo? E quali consigli possiamo dare alle mamme che hanno dei bambini un po' lentini, un po' inappetenti, per cui questo boccone gira, fa quello che lei consiglia di fare per sentire bene tutte le sensazioni, ma a volte è un pochino troppo. Diventa troppo, ma questo è tipico dei bambini, ma è una caratteristica di comportamento che è in ognuno di noi, che è la cosiddetta neofobia. Neofobia vuol dire che davanti a qualcosa di nuovo, in questo caso davanti a un cibo, a un sapore nuovo, e per i bambini è quasi è tutto nuovo perché sono piccoli, la neofobia fa sì che noi ci mettiamo in una condizione che è una condizione di non essere certi in qualche modo se quello che stiamo mangiando ci piace. Andiamo un po' coi piedi di piombo. Piedi di piombo, ma che può voler dire magari ne prendiamo un pezzettino, facciamo un quarto di francobollo di porzione, cioè proprio un pezzettino piccolissimo, e quindi già questo ci rallenta molto. E anche una volta messo in bocca questo pezzettino piccolissimo, siamo molto lenti perché quasi lì non è il voglio sentire bene il sapore, ma spesso ma lì mi è fido il, o non mi fido? Mi fido a mandarlo giù, lo tengo un po' lì. Alle mamme, ai papà, ai nonni all'ascolto, che hanno nipotini con questa caratteristica, questa modalità, lei cosa consiglia? Primo consiglio, non essere coercitivi. Al di là dell'aspetto morale, se è giusto o sbagliato, e non siamo noi a fare giudizi di nessun tipo, scientificamente parlando si è visto che la tecnica coercitiva non è efficace, se non è efficace è inutile. Cercate di fare familiarizzare l'alimento con il bambino l'alimento facendo qualcosa insieme a lui prima di mangiarlo. Sì. La stessa carota, se viene preparata insieme al bambino, normalmente evoca di meno questo comportamento di tipo neofobico, e quindi questo sicuramente può essere un aiuto. Dobbiamo fare qualcosa prima. Dobbiamo fare qualcosa prima, ma lei mi sa che deve fare qualcosa adesso. Cosa dobbiamo fare? Lei deve andare a cucinare, perché già. Il nostro medicuoco, quasi cuoco, va in cucina e poi alla fine della bufala in tavola finalmente gusteremo questo menù straordinario che potete preparare naturalmente anche voi seguendo le ricette che il dottor Erzegovesi ha creato solo per noi. Le trovate sulla pagina Facebook del programma, ma... Udite, il dottor Erzegovesi torna anche domani. Sono qui anche domani. Torna domani all'appuntamento delle 6:10, chissà con quale sorpresa per noi. Dottor Erzegovesi, io sono pronta, intanto che lei cucina io chiacchiero. Pronto? Che bellezza. A macinare le spezie. Ci sono 6 milioni e mezzo di persone che in Italia spontaneamente offrono aiuto agli altri. Le loro voci sono spesso lontane dalla ribalta, ma ben sentite da chi chiede aiuto. C'è Gianni, medico in pensione, che cura i senza fissa dimora. Anita, che ogni domenica indossa il naso rosso da clown e va in ospedale per far ridere i bambini. Luigi, che a 18 anni è entrato in carcere per far teatro coi detenuti. Said, che ha scelto di aiutare i rifugiati che arrivano in Italia. Sono Cristina Carpinelli. Ogni domenica alle 14:30 in Diario di un giorno vi racconterò le storie di chi sceglie di tendere la mano, cambiando così il corso delle cose. Storie di generosità e meraviglia, di possibilità e speranza. Naturalmente su Radio 24. Rivera è stato un calciatore completo. Mazzola era essenzialmente un uomo gol. Dicevano che era lento, però secondo me non... era il suo modo di correre che lo faceva sembrare. Era un giocatore molto veloce. Avversari con le maglie dell'Inter e del Milan, compagni con la maglia della nazionale. Che fenomeni, Sandro Mazzola e Gianni Rivera. Sono Dario Ricci e ogni domenica alle 16:30 a Olimpia vi aspetto per raccontarvi i grandi duelli della storia dello sport. Naturalmente qui su Radio 24. La bufala in tavola. Eccoci qua, siamo tornati veloci, vi assicuro che è quasi pronto, quasi. Nel frattempo, per ingannare un po' l'attesa, vado a salutare il prossimo ospite, che è il dottor Massimo Gualerzi. Voi lo conoscete bene. Dottor Gualerzi, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Cardiologo esperto in riabilitazione cardiometabolica. Dottor Gualerzi, solo all'apparenza lei viene a mani vuote. Non vedo un fiorellino, non vedo un cioccolatino, un dolcetto, ma in realtà lei ci porta qualcosa di molto prezioso, molto interessante, che ha a che fare naturalmente con la nostra tavola, perché lo spazio delle ricerche della bufala in tavola è dedicata agli studi che hanno misurato e valutato l'efficacia di alcuni alimenti sulla nostra salute. Dottor Gualerzi, allora, che cosa ci porta di buono? Che cosa c'è nel suo cestino oggi? Vi porto qualche cibo, qualche nutriente, qualche, ormai prendono la parola di nutraceutici, che abbiamo, con i quali abbiamo a che fare quotidianamente, che oggi la Società Europea dell'Ipertensione ha sdoganato essere obiettivamente utili per la nostra salute cardiovascolare e anche per la nostra pressione arteriosa. Quindi si può pensare di curarsi finalmente anche con il cibo, con la valenza e col supporto della comunità scientifica. Dottor Gualerzi, svegliamo i magnifici quattro. Tra i cibi abbiamo un posto di rilievo tra quello che è il succo di barbabietola. Il succo di barbabietola è studiato da tanto tempo, possiede dei potenti antiossidanti, delle potenti sostanze che inducono la vasodilatazione, e quindi è stato, diciamo, sdoganato come un potente antipertensivo, quindi su questo ci si può fare affidamento, no? Per abbassare la propria pressione arteriosa. Però invece, no, dottor Gualerzi, la fermo. Intanto voglio saperne di più. È buono questo succo di barbabietola? Lo bevo ogni mattina? Con che risultati? Questo succo può essere logicamente buono, poi quando parliamo di cibo è assolutamente soggettivo, però sappiamo tutti cosa estraiamo dalla barbabietola, quindi lo zucchero ha un sapore dolce indipendentemente da ciò che aggiungiamo, quindi spremere la barbabietola, fare un estratto con all'interno della barbabietola e iniziare la giornata facilita il nostro organismo a produrre tra le varie cose, oltre appunto a dare un'azione antiossidante, l'ossido nitrico, che è un potente vasodilatatore, contribuisce alla regolare funzione del sistema cardiovascolare e a regolarizzare la pressione. Quindi in ogni momento della giornata, ma va benissimo anche in apertura, quindi come estratto, perché è lì che si tira fuori il succo della barbabietola, quindi un succo di barbabietola magari anche mischiato con qualche altro frutto che possa dare un gusto anche più piacevole a chi non impazzisce per la barbabietola, ma che la deve utilizzare a fini, diciamo, di protezione e di prevenzione delle malattie. Dottor Gualerzi, ma a chi lo suggerisce? Diciamo che, allora, deve essere chiara una cosa anche ai nostri radioascoltatori, che nessun prodotto nutraceutico o comunque anche nessun cibo può sostituire la regolare terapia. È logico che lo stile di vita, insieme all'attività fisica e all'alimentazione, possono contribuire a ridurre l'utilizzo del numero dei farmaci per regolarizzare la pressione. A chi lo suggeriamo? A tutte le persone che stanno bene e hanno la pressione normale per tenerla normale il numero maggiore di anni possibili. A tutte le persone che sono già in terapia per provare ad utilizzare meno farmaci per regolarizzarla e a quindi a chiunque voglia prevenire le proprie malattie contribuendo a risolvere i problemi anche con il cibo in modo naturale. Dottor Gualerzi, e dopo il succo di barbabietola che cosa mi porta? Beh, diciamo che tra quelli che non consideriamo dei veri e propri cibi ma più delle bevande, una cosa di cui abbiamo parlato tante volte anche insieme è proprio il tè. Il tè è fatto ancora una volta insieme anche al caffè in realtà, quindi tutte quelle bevande che contengono più che la teina e la caffeina, perché le ricordiamo per quello, ma le catechine è un gruppo di potentissimi antiossidanti che troviamo anche nel cioccolato, ma soprattutto nel tè, visto che lo possiamo gustare anche 2 o 3 volte al giorno. È stato dimostrato appunto che assumere questa bevanda, e soprattutto abbiamo parlato del tè verde, alcuni tè verdi in modo ancora più particolare, possono contribuire dando l'antiossidante a fiammare le nostre arterie e quindi a renderle più responsive ai nostri stimoli fisiologici e ancora una volta quindi grazie a questo a regolarizzare sia la pressione ma anche il ritmo cardiaco e anche diciamo l'aterosclerosi, cioè regolare quel processo infiammatorio che poi ci regala, per modo di dire, no, la nostra incrostazione delle nostre arterie famose come aterosclerosi. Infatti i dati ci dicono, pubblicati naturalmente su una rivista molto prestigiosa, l'European Journal of Preventive Cardiology, ci dicono che le persone che bevono quotidianamente il tè hanno il 20% di possibilità in meno di soffrire di infarto, di ictus, e soprattutto che chi beve tè verde ha una vita più lunga, e a questo punto aggiungerei forse più sana, dottor Gualerzi. Sicuramente questo è l'obiettivo che abbiamo, rendere non solo la vita più sana, ma anche non solo più lunga, ma anche più lunga e sana, quindi questo è un must che nei prossimi anni dovremo ripeterci, dovrà diventare un mantra. Sicuramente è stato dimostrato da questo importante studio come consumare almeno 3-4 porzioni a settimana, quindi nessuno di noi deve drammaticamente cambiare il proprio stile di vita. Non dobbiamo annegarci nel tè, bastano 3 tè verdi alla settimana? 3-4 tè verdi alla settimana sono sufficienti per regalarci quella quota di antiossidanti che ci possono garantire una riduzione dell'infiammazione che sappiamo essere alla base non solo delle malattie cardiovascolari ma la base di tutte le malattie degenerative che sono quelli che ci fanno rimanere a letto per l'ultima parte dei nostri anni e quindi non farci vivere così come vorremmo la nostra longevità. Dottor Gualerzi, a proposito di tè, che cosa mi dice del tè matcha? È molto apprezzato, è molto di moda. Dottor Gualerzi, lei lo conosce, ce lo consiglia? Di che cosa apprezza di questo tè? Questa, diciamo, tipologia di tè è un tè verde particolare perché è un tè verde che viene raccolto, diciamo, a una maturazione più lunga, quindi viene raccolto tardivamente, quindi ha una fermentazione anche maggiore e quindi la prima regola è che ha un sapore più dolce e quindi piace anche ai bambini, perché sappiamo che il tè verde, poi noi italiani siamo soliti magari ad addizionarlo con qualcosa perché tende ad avere appunto questo sapore, un retrogusto un pochino amaro. Questo, diciamo, ha un gusto più dolce e ha una componente molto minore all'interno di teina, quindi di quella sostanza che appare della caffeina nel caffè, l'altro contraltare potrebbe dare dei risvolti anche eccitatori, magari non voluti. Quindi meno effetto eccitatorio, ma un altissimo potere antiossidante. Quindi in questa variante di tè si assomma le tre caratteristiche importanti: un gusto più dolce, meno teine e molti più antiossidanti. Dottor Gualerzi, vorrei anche con lei commentare uno studio che non riguarda proprio direttamente il cuore, come gli studi che lei ci ha appena raccontato, ma direi che si avvicina, direi che riguarda gli affari di cuore. Dottor Gualerzi, immagino che si vada verso il testosterone. Eccola, vede, eccolo lì, il testosterone. Intanto sembra che una dieta povera di grassi ne abbassi i livelli, quindi abbassi i livelli di questo ormone, e se col testosterone si abbassa la libido cala. È assolutamente vero, ma non solo. In realtà il testosterone, sdoganiamolo un attimo, perché non è solamente un affare di noi uomini o di noi maschietti. Diciamo che il testosterone è un ormone importante sia per gli uomini che per le donne, logicamente è l'ormone sessuale maschile per definizione. E logicamente, come tutti gli ormoni, diciamo, di questa specie, quindi quelli sessuali, questi hanno come base appunto una componente, diciamo, lipidica, chiamiamolo così per semplificare anche per i nostri radioascoltatori. Quindi una dieta completamente povera di grassi ne limita assolutamente la produzione endogena. Dottor Gualerzi, significa quindi che una dieta troppo stretta, troppo restrittiva è nemica dell'amore? Assolutamente sì, per due motivi. Prima di tutto perché probabilmente una dieta anche molto restrittiva si accompagna molto spesso, ahimè, anche un aumento dello stress. E sia la dieta restrittiva povera di grassi, quindi non bene bilanciata, sia lo stress per mezzo del cortisolo vanno, il secondo, a inibire direttamente la produzione del testosterone, il primo, cioè la dieta povera di grassi, vanno a far mancare quei mattoncini utili per costruire il testosterone. È logico che, ancora una volta, l'abbiamo già detto tante volte anche insieme, quanto questi grassi sia importante che siano dei grassi da fonte buona, quindi dei grassi buoni come quello dell'olio, come quello del grasso del pesce, come quelli degli oli vegetali, e un po' meno quelli, diciamo, super saturi o transesterificati, meglio, che sono manipolati dall'uomo. Quindi una dieta, come abbiamo sempre ripetuto, per quanto debba avere alcune regole, deve essere sempre equilibrata e non far mancare una importante componente come quella, diciamo, del testosterone, altrimenti anche noi cardiologi, non solamente gli urologi, non solo gli androgeni, si rendono conto del difetto, perché sappiamo che un testosterone basso può essere responsabile anche dell'aumento di 2-2.5 volte, diciamo, l'insorgenza delle malattie cardiovascolari negli individui, indipendentemente dal sesso, dall'età e dalle altre comorbidità. Dottor Gualerzi, io la ringrazio per essere stato con noi. Peccato che non sia venuto direttamente qui a mangiare con noi, ma noi l'aspettiamo per una prossima puntata. Intanto grazie, buona giornata e a presto. Grazie, e buona domenica. Voi. Bene, adesso noi ci fermiamo, veloci ritorniamo subito dopo le informazioni sul traffico. Io resto qui, la vostra salutare ossessione quotidiana non si fa mancare neppure la domenica. Vi aspetto perché aggiungiamo un posto a tavola. Per chi? Restate con noi per scoprirlo. La bicicletta è una fabbrica di buon umore ed è un'ottima scusa per fare amicizie. In bicicletta ci si dà sempre del tu. La bicicletta fa un po' ritornare i bambini, ci riporta un po' alla nostra essenza. Devi accettare il passo che lei ti detta, il passo che il tuo corpo, il tuo fisico, la tua mente in quel momento possono darti. Ci sei tu, la tua sfida, dove arrivi te lo sei sudato. Qualunque sia il vostro ritmo o la vostra meta, c'è sempre una bici adatta, un itinerario da scoprire, un'occasione per mettersi alla prova o per tornare bambini. Sono Alessandra Schepisi, vi aspetto ogni domenica dopo le 16 con A Ruota Libera su Radio 24. La bufala in tavola. Ho preparato una seggiolina verde alla nostra ospite di oggi, la dottoressa Silvia Goggi. Buongiorno. Buongiorno. Medico specialista in scienza dell'alimentazione, lavora presso l'Humanitas San Pio X di Milano. Dottoressa, l'ho messa verde, lo spieghi lei perché? Ho visto che le è piaciuta la scelta. Grazie, sì. Perché diciamo che la mia passione è quella di avvicinare le persone a un'alimentazione il più vegetale possibile. Il suo ultimo libro infatti ha un titolo che è molto intrigante, a me è davvero piaciuto come, proprio come titolo, come scelta, come messaggio: è facile diventare un po' più vegano, e quel un po' più è scritto in verde, quindi come la seggiolina che le offro per sedersi alla tavola della bufala in tavola. Quel un po' più avvicina e fa cadere tanti pregiudizi anche nei confronti dei vegani, che spesso sono un po' considerati aggressivi, giudicanti, insomma non mordono. Esatto, no, però... i vegani non mordono assolutamente, no, perché si vive questa scelta vegana come un tutto o nulla. Cioè invece io credo che anche un vegano part time o un vegano al 90% sia assolutamente una scelta fattibile, perché non tutti sono pronti a diventarlo completamente, certo. E ciò va benissimo, però lo stato lo stato attuale della temperatura che continua ad aumentare, il cambiamento climatico esige che chiunque abbia a cuore la questione diventi il più vegano possibile, quindi almeno una volta al giorno consumi legumi per non pesare sulla produzione di un alimento così impattante. Questo è un po' il punto di unione, è un po' quello che l'invito è di ritornare alla dieta mediterranea che metteva d'accordo tutti. Sì, la dieta mediterranea, esatto, cioè la dieta mediterranea prevede i legumi almeno una volta al giorno, quindi chiunque voglia avere una dieta onnivora sana deve almeno mangiare legumi una volta al giorno. E questo è, diciamo, vegani e onnivori si possono sedere allo stesso tavolo tranquillamente. Brava, lei lo sa, dottoressa Goggi, che chi è onnivoro, quando gli capita di avere a cena, sapere che il suo ospite è vegano, dice all'amica: mamma mia, non so che cosa fargli, è vegano, ma si può essere vegani, ma che gli faccio? In realtà, dottoressa Goggi, noi ce la possiamo smarcare anche con eleganza, possiamo anche invitare a tavola un amico vegano senza per questo dover rivoluzionare tutto il nostro menù. E nel suo libro, in cui fa dei profili molto carini, suggerisce il menù per il nonno che viene portato alla scelta vegana dal nipote. Sì, esatto. E quindi non vuole rinunciare alla tradizione, ma non vuole dire no al ragazzo. Ma no, ma ci sono infatti molti piatti della nostra tradizione culinaria italiana, sono naturalmente vegani, diciamo, non nel senso in cui hanno solo verdure ovviamente, ma nel momento in cui utilizzano i legumi. Avere un amico vegano e non sapere cosa cucinare, beh, significa che non si mangiano legumi a sufficienza, perché non dovrebbe lasciare spiazzati la condizione di dover avere un commensale che ha un'alimentazione tutta vegetale. Quindi a un amico vegano che cosa possiamo offrirgli? Una pasta e fagioli? Riso e piselli? Se è un'occasione speciale, anche magari qualcosina di più elaborata. Perché adesso noi siamo alla domenica? Per esempio la domenica si possono fare le lasagne, esistono le lasagne senza uovo, quelle secche, con il ragù di lenticchie per esempio, della zucca al forno con il rosmarino, pinoli per esempio, e una farinata, ma magari non di farina di ceci perché è domenica e siamo un po' più così, ma di farina di fave, visto che esiste, e menta, perché no? Che buoni. Sì. No, ci sono. Questa è una ragione in più per mescolare le varie ricette, che imparare da una dieta che utilizza in prevalenza verdura, frutta e legumi, anche delle modalità di cottura, degli abbinamenti che noi possiamo trasferire nella nostra dieta quotidiana, rendendola più varia e anche più gustosa. Quindi alla fine non c'è che da guadagnarci. Esatto, diciamo, come dico io, un vegano per amico non può che migliorarti la vita, perché ti costringe, quando ce l'hai a cena, a scoprire come utilizzare cereali, legumi, verdure, frutta, anche semi oleosi e frutta frutta secca, che sono cibi che avremmo dovuto già comunque consumare. Quindi questa contaminazione tra i due mondi, che vengono spesso dipinti come antitetici, in lotta, assolutamente non è così. Chi è vegano fa questa scelta basata sul rispetto sia del pianeta, degli animali o della propria salute, quindi non c'è motivo perché non debba rispettare chi ha un'alimentazione diversa dalla propria. E piuttosto che sulle differenze, che comunque continueranno ad esistere, differenze con altri esseri umani per i più svariati motivi, cioè dalla fede calcistica alla politica, certo, o che ne so, concentriamoci. Noi non siamo giudicanti. Esatto, riportiamo i dati della letteratura in comune. I legumi, i cereali, la verdura, la frutta, i semolosi e la frutta secca sono dei punti in comune a qualsiasi dieta sana. Tra l'altro, i legumi sono proprio il denominatore comune delle popolazioni più longeve. Gli abitanti delle Blue Zone mangiano legumi. Esatto. Quindi, hanno una dieta prevalentemente vegetale, se non completamente. Una mela al giorno toglie il medico di torno, ma un piatto di legumi al giorno allunga la vita, potremmo dire così. Dottoressa Goggi, per le persone che stanno facendo una scelta vegana, quindi dagli onnivori passano ad una scelta vegana, quali sono le attenzioni e le precauzioni che lei vuole suggerire? Allora, in questo sicuramente passaggio, anche se non si completa la propria transizione ma ci si ferma al 90%, spostarsi verso un'alimentazione vegetale, come oggi per fortuna si sa in tutte le salse, determina la necessità di integrare la vitamina B12. Quindi cominciare almeno un dosaggio di mantenimento finché non si dosa nel proprio sangue, insomma, è una cosa da fare. E poi io suggerisco di non farlo per eliminazione ma per inclusione, cioè partire dalla propria dieta e togliere i derivati animali. Se si aveva una dieta sbagliata prima, si ha una dieta povera dopo, cioè rimane magari solo dell'insalato, della pasta. Quindi se ciò dovesse succedere è un buon motivo per mettersi in discussione, perché significa che prima legumi, frutta secca, semi non c'erano. Quindi cominciate ad aggiungere, magari decidete di rendere la cena vegetale per tutti, che fuori a pranzo è difficile magari trovare, o non è così immediato se uno non li va a cercare, trovare alternative vegane, ma almeno un pasto al giorno vegetale di renderlo. Poi con calma i più semplici sono la colazione, le merende, poi piano piano si vede fin dove si vuole arrivare. Insomma, passetto dopo passetto. Esatto. Lei naturalmente vegana, vegana tutta la famiglia, vegana per amore, per convinzione, per scelta, nel suo libro lei ne parla. Vegana per molti motivi, diciamo. Adesso non saprei scegliere quello prevalente. Sì, marito vegano, figli vegani, tranne alle feste di compleanno, che questo potrà fare inorridire qualche vegano, però io credo che coi bambini un approccio morbido, cioè la torta di compleanno, è difficile capire perché quelle che compra la mamma fa la mamma sì e quelle dell'amichetto no. Quindi per esempio in questo caso personalmente mi comporto con morbidezza, ovviamente. A proposito di dolce, del dolce della festa, io ricordo il suo primo libro in cui c'erano davvero tantissime ricette che io ho sperimentato, buonissime, e vorrei che lei desse la ricetta di quei dolcetti che io ormai faccio regolarmente con i datteri, una sorta di dulcis in fundo. Allora, quelli sono semplicissimi, veramente ci vogliono non 5 minuti. Non me li ha portati, posso dirlo alle amiche e agli amici che ci stanno seguendo, però io so come sono buoni. Ma perché quando li faccio finiscono prima che li possa offrire a chiunque. Comunque basta frullare dei datteri con delle nocciole o altra frutta secca a piacimento, un cucchiaio di cacao, un po' di cocco, e poi si fanno delle palline in un frullatore molto potente, i datteri diventano pastosi e la frutta secca rilascia parte del proprio olio. Quindi viene una pasta molto lavorata, che si può fare a forma di palline, metterle in frigo e poi passarle nel cocco, ancora nel cacao, e vengono dei dolci senza zucchero, nutrienti, proprio che ogni morso è ricco di fibre, di antiossidanti, di acidi grassi essenziali della frutta secca, e anche senza sensi di colpa, direi, che non è bello mangiare con i sensi di colpa. Assolutamente, proprio di quello... non vogliamo mangiare con i sensi di colpa. E quindi un piatto di legumi, magari con una delle ricettine sfiziose che la dottoressa Goggi ci ha proposto, e questi bei datterini, questi bonbon di datterini, guarda, mettono d'accordo tutti, vegani, non vegani, mezzi vegani, un po' più vegani. Dottoressa Goggi, grazie per essere state con noi, grazie a Gianmarco Ferronati in regia alla parte tecnica, a Laura Vanossi in redazione. Dottoressa Goggi tornerà? Assolutamente. Allora, buona domenica anche alla dottoressa Goggi. Noi ci sentiamo domani, come sempre, alle 6:10, 6:15, per iniziare bene la giornata con una buona colazione. A domani.